In questo lunedì 1 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre con fisco, record di denunce penali e boom di ipotesi di reato più 80%. Le segnalazioni alle procure sono aumentate del 50%, dunque il boom di denunce penali per quel che riguarda il fisco. Corriere della Sera invece, il titolo d'apertura è la mina statali sui conti dell'INPS, gli effetti della fusione con l'INPDAP, le amministrazioni non versavano i contributi e ora la cassa dei dipendenti pubblici porta il deficit dell'INPS a 9 miliardi. Repubblica, rimborsi, lo scandalo delle province. Ma come, eravamo rimasti alle regioni? Ebbene sì, ora anche le province. E poi il tema è il Monti bis. Per molti quotidiani si apre su questo. La Stampa, il Monti bis scuote la politica. Il Giornale, i furbetti del Monti bis. Il Messaggero, Monti bis si allarga al fronte. Il Secolo XIX avanza il partito di Monti. Pubblico, il sonno di Bersani genera Monti. Mentre l'Unità, Tobin Tax, il governo dica sì, la campagna dell'Unità per la tassa sulle transazioni finanziarie. Però sapete che dopo la diga aperta da Batman a Fiorito, la questione dei rimborsi delle regioni davvero è una diga che sta esondando. E allora vi voglio raccontare due vicende, poi ci concentriamo più avanti la questione delle regioni in maniera un po' più istituzionale, ma due vicende legate ai rimborsi. Ora tutti vanno a fare le pulci sui rimborsi chilometrici dei politici, vanno a vedere perché si spostano, come si spostano. Epocale le interviste del weekend, le avrete viste forse, del consigliere regionale del Piemonte Boniperti, che dice ad agosto ma io sono sempre in giro per Sagre e rappresento la regione, quindi rimborsi chilometrici anche in pieno agosto. Eccolo qui, tutti i trucchi dei furbetti del rimborso. Sul Corriere della Sera Alessandra Mangiarotti fa due chiacchiere con un consigliere della Liguria, Lorenzo Pellerano, 29 anni, lo trovate a pagina 9. Dalla scorsa settimana Lorenzo Pellerano ha 39 nuovi nemici, tanto sono i consiglieri regionali in Liguria escluso se stesso. Noi, aveva detto a margine di una seduta, abbiamo a disposizione Telepass e Via Card senza tetto di spesa. Non sono sicuro che il Consiglio verifichi i percorsi e vada a chiedere a ognuno di noi il rimborso delle spese personali. Dopo questa frase, ovviamente, tutti gli altri consiglieri si sono affrettati invece a pubblicare il dettaglio degli 80.000 euro che il Consiglio spende per i pedaggi autostradali all'anno. 80.000 euro, Telepass e Via Card per tutti. E racconta Pellerano: francamente però è viva tutto questo fracasso, trucchi, trucchetti, ma anche sistemi legalmente inattaccabili che fanno la gioia del furbetto di turno. Li conosciamo tutti, alcuni sono istituzionalizzati, basta! I trucchetti istituzionalizzati, ma com'è possibile? E invece è possibile. La Liguria non è il Lazio, dice Pellerano, ma non ci sono solo le ostriche. Prendiamo il nostro rimborso forfettario per gli spostamenti dei consiglieri. E qui udite, udite, perché è fantastica. Francamente io prendo 2.800 euro al mese, ma di questi ne spendo solo qualche decina. Mi sposto in motorino e in Liguria, come in altre regioni, i soldi sono stati tagliati come indennità, ma sono finiti lì. Niente scontrini, niente autocertificazioni, niente di niente. Oh, questo è un consigliere regionale che parla, quindi... Tutto si calcola in base alla distanza della residenza del consigliere dalla regione e all'attività media. Allora, se uno abita entro 25 km dalla sede della regione, ha diritto a 2.800 euro al mese per gli spostamenti. E lui dice: ma io mi sposto in motorino, faccio pochi chilometri, ne spenderò qualche decina di benzina. E vabbè, dice, in questa politica non mi riconosco, è finito il momento di dire solo che fa schifo. E racconta tutti i trucchetti, soprattutto per i rimborsi per gli spostamenti. 2.800 euro al mese per chi vive entro 25 km dalla regione Liguria. Abiti a 100 metri, esci di casa, ti prendi un caffè e vai comodamente a piedi. 2.800 euro. Perché a quel punto prendi la macchina, fatti 18 giri dell'isolato e poi vai alla regione. Potresti fare anche così. La seconda storia viene dalla provincia della Val d'Aosta. La racconta Daniele Mammoliti sulla Stampa, pagina 7. C'è anche, io sorridevo quando l'ho letto, il sacrificio del consigliere che annuncia «mi riduco l'indennità». Beh, bel gesto di questi tempi, ma si riduce solo di 100 euro su 7.000 e rotti. E io ovviamente ridacchiavo di gusto questa mattina quando ho letto questa notizia in redazione. Ironie sul segretario dei Democratici, autoridursi lo stipendio da consigliere regionale? In Val d'Aosta si può, ma nessuno lo fa. Unica eccezione il segretario del PD locale, Raimondo Donzel, che ogni mese rinuncia a 100 euro, cioè l'1,36% della sua indennità. Ovviamente sono fioccate le ironie con soprattutto i social forum a fare da gran cassa. A sparare il proiettile dello starter ci ha pensato tra l'altro l'ex ostacolista medaglia olimpica nel 68 Eddie Ottoz, che è un ex consigliere regionale dell'Union Valdoten, poi passato al PDL, oggi è definito un battitore libero, e ha scritto sul web questa cosa: si è ridotto questo Donzel di 100 euro lo stipendio. Cos'è, una presa in giro? Ecco subito che su Twitter la notizia è stata diffusa. Ebbene, la notizia è questa: c'è una norma che prevede le autoriduzioni volontarie dello stipendio, che risale allo scorso Natale. Ovviamente quanti si autoriducono lo stipendio volontariamente in regione, nella provincia della Val d'Aosta? Nessuno, ovviamente. Nessuno, però il Consiglio regionale valdostano ha tagliato l'indennità del 10,34%, portandole alle attuali 7.345. L'unico appunto che ha deciso mi taglio lo stipendio è Donzel, che però si è tagliato dell'1%. Vabbè, qualcuno può dire almeno lui l'ha fatto, questi 100 piccoli eurini li ha messi a disposizione delle casse del popolo, ecco. Il clima è questo, cari ascoltatori, il clima per quel che riguarda rimborsi, la politica è questo. Ci sono paginate e paginate, tra poco magari ne vedremo anche alcune altre, fa effetto, ma è anche capibile la situazione. Lo sfogo sempre sulla Stampa del consigliere regionale del Piemonte Goffi dell'UDC, che dice: sa cosa mi è successo oggi ai giornalisti che lo intervistano? Passeggiavo in centro a Torino con mia moglie e mio figlio e mi hanno additato. Guarda, quello è un consigliere regionale. Ovviamente il tono era dei più sprezzanti possibili. Ecco, questo è il clima. Ci sentiamo tra 5 minuti. Sono le 7:36, eccoci qua ancora nella prosecuzione della lettura dei quotidiani in edicola, molti dei quali aprono sulla questione del Monti Bis. Ieri, per chi ha letto l'intervista a Montezemolo sul Corriere della Sera, Montezemolo ha detto: il meglio dopo Monti è Monti, questo in pratica. E quindi molti giornali titolano: si allarga il fronte del Monti Bis, il partito del Monti Bis. Ieri Fini era ad Arezzo e anche Gianfranco Fini insieme a Casini hanno detto e dicono, facendo e annunciando una lista civica per l'Italia nella quale ci sono c'è stato tra l'altro, fa sapere il Corriere della Sera con Lorenzo Fuccaro a pagina 2, erano interessati anche a guardare la nascita di questa nuova lista Mille per l'Italia. Anche Paolo Rossi, il bomber del Mundial, quello dei 3 gol al Brasile, e il giornalista TV Tiberio Timperi, oltre ovviamente a personalità della politica. Ebbene, Fini e Casini dicono: bene Monti, la lista nazionale per Fini, una grande lista civica senza nomi, senza simboli di partito, un progetto a cui guarda anche Montezemolo, pronto a impegnarsi senza però rivendicare alcun ruolo o leadership, tanto che il giornale lo titola e li mette in pagina così: i furbetti del Monti Bis. Un po' impietoso il giornale nella sua analisi politica, dice: in pratica, siccome Fini e Casini non hanno i voti, hanno capito che l'unico modo è sperare in un sostanziale pareggio alle elezioni e poi puntare al Monti bis. Già, ma come ha reagito Mario Monti? Beh, qui si va nel retroscena della politica, perché ovviamente Mario Monti ufficialmente non ha detto nulla. La strategia dell'attenzione del Premier per non sconfessare il network del 2013. Non ne so niente, però ne parlano altri. Questo è il titolo del retroscena su Repubblica, pagina 11, di Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa. La linea del Premier è quella del wait and see, cioè aspetta e vedi un po' che succede. Ovviamente nessuna dichiarazione ufficiale. Certo però, dice Repubblica, l'inquilino di Palazzo Chigi non permetterà che su liste o simboli compaia il suo nome. Come ieri ha detto il ministro Passera, intervenendo da Fabio Fazio su Rai 3, detto, non si può utilizzarlo come lista, non si può utilizzarlo come campagna elettorale, cioè il nome di Monti, questo no. Certo però, dopo che Monti ha detto sono disponibile se sarà necessario, se servo io ci sarò, ecco che si allarga il partito del cosiddetto Monti bis. Tutti i giornali fanno delle grafiche con delle faccine, sia il Corriere, sia Repubblica, sia la Stampa, e mettono quelli che sono i sostenitori. Per esempio, per la Stampa, pagina 3, forse è la grafica più chiara, i sostenitori del Monti bis sono soprattutto Casini, Fini e Montezemolo. Gli attendisti sono dati Berlusconi e Alfano. Berlusconi non si capisce. Gli ostili, totalmente ostili, sono Maroni, quindi la Lega, Di Pietro, Grillo, Susanna Camusso, CGL, La Russa, Santanchè, Matteoli e Meloni, per quel che riguarda il Popolo della Libertà. Simpatizzanti invece molti del PD, Gentiloni, Ceccanti, Ichino, oppure del PDL, Pisanu che fa un'intervista oggi al Messaggero in questo senso, Frattini, Gianni Letta. E poi ci sono preoccupati Bersani e Renzi. Bersani ha detto la battuta: Montezemolo vuole correre con la macchina ma stando ai box. Ha usato questa metafora per dire vuole essere della partita ma senza rischiare, in pratica. Sta di fatto che anche nel retroscena di Ugo Magri sulla Stampa il Premier incassa, ma solo un pareggio gli garantisce il bis. Questo è il titolo. Beh, scrive Ugo Magri, chiedere ai consiglieri di Monti se lui ha gradito il sostegno di Montezemolo, se alla vigilia ne avevano ragionato insieme, se per caso ieri i due si sono sentiti anche semplicemente per scambiarsi qualche impressione, fare insomma domande del genere tra gli esercizi più frustranti della professione giornalistica. La risposta è invariabilmente no, zero contatti, tanto prima quanto dopo l'intervista sul Corsera al presidente della Ferrari. Certo, scrive Ugo Magri, al professore è chiaro, fa molto piacere questo endorsement così forte e autorevole. Altrettanto indubitabile appare che Monti trovi conforto in questo moltiplicarsi di iniziative tutte ispirate alla sua agenda politica. A questo è dedicato anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firma Pierluigi Battista, dal titolo L'ombrello e la scialuppa. Scrive Battista: ora è esplicito che l'arcipelago neocentrista, il nuovo partito di Montezemolo, di Casini, di Fini, più altri e variegati frammenti della galassia moderata, andranno alle elezioni con un candidato che non si candida, Mario Monti. Non si sa come la prenderà l'attuale presidente del Consiglio, si sa però che la prenderanno bene le istituzioni europee, i mercati, gli investitori, gli alleati dell'Italia, i partigiani dell'euro timorosi che con le elezioni vada smarrito il rigore, il recupero di credibilità internazionale incarnato dalla figura di Monti. Si allontana il rischio che con il ritorno della politica l'Italia sprofondi nuovamente nelle cattive abitudini della spesa spensierata e del consenso pagato con i debiti. Ci sono però per Battista alcuni rischi. Il rischio maggiore è che il governo tecnico, diventando la bandiera di una parte, smarrisca quel connotato ecumenico che ne fa l'espressione di una grande coalizione. Il secondo rischio è che la campagna elettorale che si sta per aprire perda ogni significato sul piano dei contenuti, per trasformarsi in un referendum pro o contro Monti. Il terzo riguarda il fronte che si schiera a favore del Monti bis a priori, che finisce per fare un simbolo del Premier chiamato a salvare l'Italia dal fallimento, ma anche per trincerarsi dietro una nobile figura apprezzata dalla comunità internazionale per evitare i difficili dilemmi di una scelta. E insomma, vi piace questa idea del Monti bis? Cari ascoltatori, questo è il tema politico che reggerà per un po', forse come scrive anche Battista, fa capire, per trincerarsi da parte di qualcuno, da parte, dietro a queste ipotesi di Monti bis, e mascherare così il fallimento delle proprie politiche, oppure qualcuno perché magari i voti non è che li prenderebbe tantissimo e quindi sale su questa possibilità, su questo treno. Sta di fatto che è contrario Matteo Renzi, oggi viene intervistato da Repubblica. Se perdo le primarie, dice, non vado via, ma se vinco sarò io premier e non Monti. E ribadisce questa cosa che ha già detto qualche giorno fa: le elezioni non sono scherzi a parte, non è che si vota e poi si dice abbiamo giocato. Il destino personale di Monti è molto importante per i mercati oggi e per vari istituzionali ruoli domani. Ecco, vari istituzionali ruoli domani, che vuol dire, secondo Pubblico e nell'articolo di Tommaso Labate, la mossa di Bersani, preoccupato da appunto questa idea del Monti bis, potrebbe essere questa: candidare Monti per il Quirinale, cioè puntare a Monti a capo dello Stato. Eccolo qui, titolo a pagina 2 di Pubblico, la carta segreta di Bersani, lanciare Monti per il Quirinale. Non voglio che vada né in pensione né che torni in bocconi una volta che si torna alle elezioni. Questo per quel che riguarda la politica, cioè la politica da una parte si esercita sul Monti bis, dall'altra sugli sprechi continui, totali, che si scoprono nelle regioni e ora anche nelle province. Guardate l'inchiesta di Repubblica, Emanuele Lauria, a pagina 2-3, rimborsi, lo scandalo delle province. Volete sapere che cosa si sono fatti rimborsare i consiglieri provinciali? Tra poco, dopo il traffico. E allora eccoci qua, Emanuele Lauria su Repubblica. Le province, viaggi, tablet, giardinaggio, alle province rimborsi a pioggia, così si spendono oltre 20 milioni, leggete l'articolo a pagina 2-3, ecco tutti gli scandali negli enti in via di cancellazione. Si sono fatti rimborsare tutto, ma proprio tutto, scrive Lauria. Dall'acquisto di calendari, bandierine, display, l'invio di pacchetti di migliaia di sms, la fornitura di t-shirt, i cartoncini augurali per Pasqua e Natale, le missioni a Malaga, si può forse mancare al forum delle città euro-arabe, gli spazi televisivi, parola d'ordine, attività istituzionale, che serve anche a giustificare l'acquisto di uno stock di dizionari Zanichelli, utili magari a un ex assessore passato alla storia per aver definito la Sicilia un'isola accerchiata dal mare. Una ricevuta e via, ecco il pagamento a piedi lista. Ne hanno fatta tanta di attività istituzionale, per esempio i consiglieri provinciali di Catania, se in un anno sono riusciti ad accumulare spese per 215.000 euro. Ma da Pescara a Treviso, da Agrigento a Frosinone, si moltiplicano le spese allegre per gli amministratori fuori sede. In Abruzzo, il quotidiano Il Centro ha svelato i rimborsi viaggi dei consiglieri, 8.425 euro ad aprile, un quarto dei quali appannaggio del presidente Giorgio De Luca. A Treviso la giunta Muraro ha messo insieme 177.000 euro di rimborsi viaggi in un anno e in un solo mese, nel marzo 2011, il vicepresidente Zambon del PDL ha presentato spese per trasferimento pari a 5.308 euro. Insomma, un viaggio in presunti, per carità, sprechi delle province. Tra i casi anche il finanziamento da 2.400 euro per un torneo di beach volley a Bolzano. A Pescara i rimborsi viaggi dei consiglieri, 8.425 euro ad aprile, appunto. A Milano c'è la nuova sede, pronto il bando per la nuova lussuosa sede da 12 piani per un costo di 43 milioni di euro, per una provincia che tra 400 giorni scomparirà. Certo, scomparirà? Questa è la domanda. A guardare e a leggere il tema della spending review a pagina 4 del Sole 24 Ore, sapete che il ministro Patroni Griffi ha fissato e il governo ha fissato delle stringenti misure entro le quali o una provincia rientra oppure deve sparire. Taglia le province al rallentatore, tra ricorsi e che cosa? Puntini di sospensione, la parola magica dell'Italia, di questo nostro paese? Deroghe. Allora succede questo, racconta il Sole a pagina 4. entro domani i consigli delle autonomie locali dovranno presentare un'ipotesi di riordino da girare alla regione, che la invierà al governo. Anche qui notare la burocrazia. Cioè, come si tagliano le province? I consigli delle autonomie locali dovranno presentare entro domani un'ipotesi di riordino delle province da inviare alle regioni, le quali busseranno alla porta del governo e gireranno al governo queste ipotesi di riordino. Vabbè, al di là dei passaggi burocratici, che basterebbe alzare il telefono e dire, o mandare una mail e dire riordiniamo così, la verità è, scrive Il Sole, che praticamente quasi nessuno lo farà. Solo in Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia c'è già un'ipotesi definita sul riordino. Per il resto, tutte le altre regioni, a cominciare dalla Lazio e Toscana, dove la situazione è tra le più ingarbugliate, a Toscana sopravvivrebbe solo Firenze. E allora, voi ve la vedete, Pisa e Livorno, Siete pronti a confluire sotto la stessa provincia, pisani e livornesi? Siete pronti, Già mi vedo, sì, con le alabarde, ad andare in cantina a tirare fuori le armi dei vostri nonni. Ebbene, siccome non ci sono ipotesi, molti chiederanno le deroghe, ci vuole più tempo. In Toscana c'è l'ipotesi delle 3 aree vaste, caldeggiata dal governatore, oppure delle 6 province totali. C'è chi ha fatto ricorso al TAR, ovviamente, perché non accetta questa cosa. Insomma, si cerca di prendere tempo, un gran classico. Due notizie riguardo il fisco. La prima è l'apertura del Sole 24 Ore, non è una bella notizia: reati tributari, balzo del 50% in 2 anni. Questa è un'elaborazione che trovate nel titolo di prima pagina e nell'inchiesta di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente a pagina 3. Quasi raddoppiati i mancati versamenti dell'IVA, gli uffici rischiano così di accumulare un pesante arretrato. I reati tributari fanno notare un balzo del 50% in 2 anni. La seconda notizia invece è il titolo di apertura del Corriere della Sera e riguarda la fusione tra INPS e INPDAP che è stata prevista dal governo Monti. Sembrava una buona idea, scrive il Corriere, l'unione dell'INPS con l'INPDAP, cioè l'Istituto dei Dipendenti Pubblici, e con l'EMPALS, quello che cura lo sport e lo spettacolo, che poteva determinare forti economie. Ma ora che cosa si scopre? Che l'INPDAP ha portato in dote un disavanzo enorme che può mettere in crisi tutto il sistema dell'INPS, tanto che il titolo di prima pagina del Corriere è questo: la mina statali sui conti dell'INPS. La cassa dei dipendenti pubblici, cioè l'INPDAP, ha portato con sé un deficit di svariati miliardi di euro. Ed ecco allora a pagina 13 Enrico Marro: la cassa degli statali manda in rosso l'INPS. L'impatto della fusione con l'INPDAP e l'EMPALS porta a un buco dei contributi del pubblico impiego. Nel giro di pochi anni si potrebbe arrivare all'azzeramento del patrimonio netto. Colpa dell'INPDAP, che entrando sull'INPS ha scaricato nel bilancio ben 10,2 miliardi di euro di disavanzo patrimoniale e quasi 5,8 miliardi di passivo per l'esercizio 2012. E dunque questo è un qualcosa che rischia di portare cose negative. Oh, che dire, abbiamo un minuto? Sì, in un minuto vi segnalo la storia che trovate su Il Secolo XIX, Il Giorno, La Stampa. È una storia che riguarda un hacker, il baby hacker dei voti è un genio, è un ragazzo 18enne che sta passando guai con la giustizia, perché è entrato in un istituto tecnico di Valdagno e ha modificato le pagelle, però... ha dimostrato nel commettere questo reato una sua genialità da hacker, tanto che c'è un'azienda di Tiene che ha detto: lo assumiamo noi, adesso sconti la pena, ma appena esce ci sono delle aziende in gara per assumerlo. Ha violato il sistema informatico della scuola per aiutare i compagni, hacker falsifica la pagella online, questo è il titolo del Giorno, è un genio, lo assumiamo noi. E ci si chiede, è giusto che attraverso un reato possa avere poi un futuro lavorativo? Ma non è la prima volta, non sarebbe la prima volta per quel che riguarda gli hacker. Non c'è tempo per il titolo della Gazzetta? No, non c'è tempo, chi se ne frega, tanto il Milan ieri non ha giocato. Allora il Giornale Radio.